Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti a Smart City. Che cosa succede quando si accoppiano materiali praticamente puntiformi, come i cosiddetti nanocristalli, con altri materiali altrettanto esotici e strani, diciamo così, come il grafene o il solfuro di molibdeno, materiali bidimensionali dello spessore di uno o pochi atomi? Beh, per esempio potrebbe accadere, a patto di scegliere i nanocristalli giusti e anche a patto di darsi poi molto da fare in termini di sviluppo industriale, che ne vengano fuori i presupposti per realizzare delle celle fotovoltaiche o dei LED più efficienti ed economici, come sembra indicare la ricerca di cui parleremo questa sera, che si inserisce nel ricco filone di indagine che negli ultimi anni si sta sviluppando intorno a tutto, potremmo dire, ciò che è nano. Parliamo del progetto Sonar, progetto Horizon 2020, che vede coinvolti istituti di ricerca e scienziati con conoscenze complementari nel campo della fisica, della chimica, della spettroscopia, della microscopia e dei dispositivi elettronici, scienziati provenienti sia dall'Europa che dagli Stati Uniti. Il progetto è coordinato dal Politecnico di Milano e in particolare da un suo ricercatore che è in linea con noi, Francesco Scotognella. Benvenuto. Grazie per l'invito, grazie mille. Dunque, Scotognella, siccome è un tema piuttosto complicato, per cercare di spiegare, forse possiamo partire da un punto. Noi tutti abbiamo a casa ormai LED, abbiamo visto tutti i pannelli fotovoltaici. Questi oggetti, che sono imparentati fra loro, si assomigliano per molti versi, oggi hanno dei limiti di efficienza. Ecco, a cosa sono dovuti principalmente i limiti di efficienza oggi di LED e pannelli fotovoltaici? Certo, allora i materiali utilizzati per fare questi dispositivi sono simili, sono semiconduttori, dove nel caso della cella solare, del pannello fotovoltaico, abbiamo una conversione da luce ad energia elettrica, mentre invece c'è il contrario, abbiamo un'iniezione di corrente elettrica convertita in luce nei LED. Cioè, per fare questi apparecchi si scelgono dei materiali particolari che hanno proprio questa proprietà di fare bene questo lavoro, no? Di fare bene queste conversioni. Fanno bene questo lavoro, però in alcune regioni spettrali caratteristiche, diciamo caratteristiche proprio del materiale, appunto. Quindi abbiamo il silicio che lavora bene nel visibile, per come c'è la solare, abbiamo il nitruro di gallio che emette benissimo nel blu come diode emettitore di luce. Ma magari emette male nel rosso, mentre un materiale che converte bene la luce visibile converte male l'infrarosso, che però è metà dell'energia che riceviamo dal sole. Insomma, c'è un problema di questo genere. E oggi, per esempio, per i pannelli fotovoltaici, come si cerca di risolvere questo problema, di fare in modo che tutta la luce che arriva sul pannello fotovoltaico sia convertita in energia elettrica? La cosa più semplice è quella di dire: lavoriamo su tanti materiali, ogni materiale ha al suo spettro di fotoconversione caratteristico, e quindi si lavora con l'accoppiamento di tanti materiali, facendo queste celle solari multigiunzione. Cioè multistrato, quindi come un panino con tanti strati, ognuno dei quali lavora su certi colori, chiamiamoli così, per esempio della luce visibile. Ovviamente però, parlando di semiconduttori come quelli classici, si arriva a una lievitazione di costi importante, perché bisogna pensare a più materiali. Ecco. Tanto è vero che questi dispositivi si usano solo per applicazioni molto particolari, o altrimenti siamo rimasti alle architetture tradizionali, chiamiamole così. Ecco, e qui arriviamo alla vostra ricerca, perché che contributi arrivano proprio da questo progetto Sonar, che potrebbero andare in quella direzione, cioè quella di aumentare efficienza un domani di LED e pannelli fotovoltaici, anche se non è questo l'unico scopo della ricerca? Sì, noi ci proponiamo di utilizzare dei materiali nanoscopici, dei nanocristalli, che quando si parla di nanocristalli parliamo di materiali grandi, circa un miliardesimo di metro, quindi molto piccoli, di semiconduttori con una certa particolarità: sono semiconduttori drogati, quindi dove abbiamo caratteristiche che assomigliano a quelle dei metalli. Però se un metallo solito, diciamo un metallo usuale come l'oro, l'argento, il rame, hanno un assorbimento caratteristico nel visibile, questi nanocristalli drogati hanno un assorbimento caratteristico nell'infrarosso. Quindi se si riuscisse a recuperare con questi materiali la parte di infrarosso e poi con un meccanismo opportuno cercare di fotoconvertire fotoconvertire questa luce, si arriva ad una produzione di energia elettrica dove si recupera anche quella parte di infrarosso dello spettro solare che veniva persa, esatto, migliorare l'efficienza, esatto. Poi altri materiali che studiamo in questo progetto sono i materiali bidimensionali che possono essere spessi dal singolo atomo a pochi atomi. E che funzione hanno? Perché voi state proprio studiando questo, cioè l'accoppiamento fra questi materiali tutti un po' esotici, nanocristalli e materiali bidimensionali. Esatto, praticamente in un possibile dispositivo che utilizzi questi due materiali, il nanocristallo avrebbe la funzione di assorbire radiazione elettromagnetica nell'infrarosso e in qualche modo trasferire questo assorbimento al materiale bidimensionale che sarà ad esempio un semiconduttore in qualche modo. I due collaborano, diciamo, no? Ci sarà un lavoro sinergico, diciamo, per la fotoconversione della luce in energia elettrica. Ecco. Quindi si tratta proprio di un principio completamente nuovo sulla quale potrebbero un domani essere basati dei pannelli fotovoltaici. Esatto, sembra quasi, diciamo, lo potremmo chiamare una nano multigiunzione, perché anche prima stavamo parlando di multigiunzioni, in questo caso è una multigiunzione tra nanocristalli e materiali bidimensionali, dove però bisogna anche considerare il fatto che i nanocristalli di questo tipo, questi semiconduttori drogati, sono molto poco costosi nella loro produzione, e anche, diciamo, i materiali bidimensionali si sta arrivando, diciamo, a una ottimizzazione della fabbricazione anche lì a basso costo, quindi due materiali a basso costo che lavorano in sinergia in questa nanogiunzione e farebbero una cella solare, diciamo, una cella solare alternativa. Ecco, oltre all'aumento di efficienza in questo campo, diciamo, che potremmo definire dell'optoelettronica, che altre applicazioni vi aspettate per questa strana accoppiata di nanocristalli e materiali bidimensionali? Possiamo pensare anche a un'applicazione nel campo della sensoristica, dove abbiamo sensori di radiazione infrarossa, però in questo caso dovremmo utilizzare al posto del materiale bidimensionale semiconduttore il grafene, questo materiale molto, molto interessante fatto di soli atomi di carbonio. Quindi accoppiando questi nanocristalli di semiconduttori drogati col grafene si può appunto pensare a un lavoro sinergico tra i due materiali per fare un sensore di radiazione infrarossa. Dunque Scotoniella, quali saranno i prossimi passi del vostro lavoro? Su cosa lavorerete prossimamente? Certo, sì, questo progetto è iniziato da meno di un anno, quindi abbiamo cominciato a capire quali materiali appunto fossero i più consoni per queste applicazioni, quindi si può continuare a lavorare sulla ricerca di diversi materiali, semiconduttori drogati oppure materiali bidimensionali, e poi appunto ottimizzare la sinergia tra i due in vista di applicazioni di emissione di luce o fotoconversione per celle solari. Ecco, anche perché bisogna immaginare che quando si lavora con oggetti così piccoli, così fragili, è anche difficile, no? Come dire, non è che uno può prendere un saldatore e attaccare due cose, no? Sì, la parte, diciamo, c'è una collaborazione tra diversi gruppi di ricerca, ci sono quelli che fanno i calcoli quantistici, poi noi siamo più il Politecnico, diciamo, noi ci occupiamo più della spettroscopia, poi però la parte di material science, la parte di scienza dei materiali, di chimica dei materiali è importantissima proprio in questo, per lavorare su questa nanosaldatura di questa funzione. Ecco. Va bene, allora grazie Francesco Scotoniella e avanti così. Grazie mille, buonasera, grazie mille Maurizio. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata, buona continuazione qui su Radio 24.